Mari. Aspetta, no. Dumitaci. No, il canto so. È vero. Ehi, ya. E beh, Giomari. Ehi. Dimmi tutto. Cos'è che stai combinando? Oh, niente. Io pomeriggio mi faccio un riposino, ho mangiato. Adesso sono qua, mi. Faccio da poco fa la radio, dai. Ah. Non sei uscito, mi. No, ancora è presto. Sembrava che ne scende palare, invece non ho fatto una piovuto. Per carità, ragazzi. La giornata non era brutta, là. Ma dovevi scendere in campagna, perché? In campagna dovevo scendere. Ho visto le previsioni, non ci sono sceso per quello. Infatti ha messo più. Dice che pioveva, invece. Ci ha fatto una serata bella. Vabbè. Ne farà belle, belle giornate. Quando arriva il caldo, a me se ne fa belle giornate. Va bene, siamo in inverno, fino al 21 marzo siamo in inverno, per cui freddo non sta facendo, per cui siamo tranquilli là. Dai, diciamo freddo buono, la sera magari, la notte, sì. Come di più la temperatura, comunque già non possiamo lamentare, pensa a quelli di... La notte, perché c'è un po' di umidità, di giorno, freddo non ce n'è, no, cazzo. Sta facendo belle giornate, per cui non ci possiamo lamentare più del tanto, capito? Perché siamo in inverno, prima in questo mese c'era anche la neve qualche volta. Infatti non ci possiamo lamentare, no. Un attimo al telefono. Cosa ti serve quella roba là, quella scheda? Cabanne. Per un telefono. Telefoni vecchi. Telefoni vecchi. No. Ma che telefoni dove c'era la micro, capito? Poi si chiama la nano sim, non la micro SD, ignorante. Per la Giomaria, mira, le ha squadrato il telefono. Che meri? Faloni! Andiamo bene, andiamo! Che meri? E lu? Faloni! Signor Marchisio! Sempre attento, signor Marchisio, sempre attento. E come ti mai così basso stasera? Buonasera. Buonasera anche a lei, perché basso sono. Adesso no, ma poco fa sembrava che era sotto a qualcosa. Era sotto l'effetto della benzina. Era lontano parlando, dottor. Sto spegnendo un po' di alimentazione. Stiamo parlando da lontano. Viaggio compreso. andiamo, signor Bacchi. No, andiamo male, no, male. Se a caso mai avevo dormito altri e mi ha buttito. Ah, Gesù sì. Quello sì, e cosa vuoi che ti faccia? Ma il signore ci vuole così. Amo signore, basta farlo correre. Uia, che andiamo, chetta. E signor Marino? Se non è all'ascolto oppure sta facendo il bambinaio. Vediamo se c'è. Attento, Marino, ci sei? No, ho detto che è impregnato. Ce l'ha ancora dormito. Di sicuro sì. Andiamo a vedere. Non verrà altro nessuno. No, stavo soltanto sul 10. È un casotto, non quindi più. Stanno parlando dei camper e roba varia. Ma dove, qua? No, sul 10 erano. Ah, allora no. Oh. Una volta mi interessava, ma non mi interessa ne più. Era quelli che vengono nei camper, che hanno visto, che hanno baracchino, prova i nocchi, prova che da lui. Andavi, senti con le splatter, vedevo di Lucca. Siete, tutti e due ti ribelli di splatter. Sì, ma bassi bassi però, deve essere qualcosa fuori frequenza che ci abbia. Quello sì, qualcuno fuori frequenza deve essere. Ehi, vabbè. O vanica che pentolina. Ah, boh, non lo usaccio. Era basso basso, però lo splatter non segnava neanche uno, due. Sentivo vibrare, però io ho girato a vedere chi era e ho sentito lì, sul 10. Dai. È così, e vabbè, proviamo a far così e già cambiamo. Sì, siamo sani e dopo ci abbiamo tutto. E Giovanni Maria ho sentito stasera. Io già ti già va. Come ti ho chiamato? Stavo appena accendendo. Io ci avevo acceso da che ora? Alle 7. Io sono alle 7 acceso. No, perché una portante fondo scala ha detto nulla, l'ho chiamato, non ho risposto nessuno. Ho chiamato a te, ha detto che non se la torno provando, nulla. Marmolino non si è sentito e dunque non so chi era. Ma quello che ha sentito stasera? No, boh. Aspetta che chiamiamo a Gio Maria a vedere se ci risponde. Attenzione, signor Gio Maria! Ha detto che deve essere occupato. C'è l'ufficio aperto. Vabbè. Peggio Baedi. Non sa le cose a Bellini. Dopo, non sa se uno. Marino, affacciati. Chi se mi pare sia pure di roba e non te la graviglia. Io faccio subissamento. No, sta gira proprio di Bennari, no. Purtroppo sarà sabato o domenica. Vabbè, no, domenica magari. Non manco pure a chi travaglia domenica. Domenica è l'ultima domenica dei romesi e travaglia. Dunque, non può essere. Infatti. Io ho già finito di valere domenica, signor Bacchi. Io sono finito, no. Prima di fare io pure le domeniche, ma ho già finito. Chiaro, fatti l'unori anche lunedì mi faccio. domenica lunedì sino a torna la domenica. Vabbè, anche qui bisogna fare torre, se no la città rimane sporca. Sì, signor Bacchi, bisogna fare così, bisogna fare. I nuovi entrati lo fanno. I novelli, tutto con i novelli. La canzone della carcaccia, sicuro. Vediamo signor Marino se risponde, se è arrivato in postazione centrale. Signor Marino, ci sei? Ma che, no, se ne vuoi intendi. Se non lo vengo i vostri rivolti, e lo posso pagare pure a P. Così impara. E impara sì, così impara tutto. Non si è comportato male, si sta comportando un po' male. La sera non sta più accendendo l'orario, e adesso lui accende all'ora di chiusura, all'ora degli addini. No, cosa possiamo fare, lettore, a questo signore qua? Boh, signor Bacchi, più che paga fate bagabbi. Ma almeno fa un mese però. Senti, che c'è bello. dai, dai. No, anche se vai a pagare una volta solo mi torna sempre. Invece se lo fai pagare per un mese io penso che non mi torna. Se non si fa vedere per un mese non si fa vedere. Signor Marino, rispondi. Io ti sto rispondendo, buonasera. Buonasera, vi stai Tore? Vi stai che si è affacciato, ha avuto paura perché quando gli entro doveva pagare bene per un mese intero, subito ha cavato un capo fuori. Avanti, signor Marino, buonasera. Andiamo bene, andiamo, Bacchi, Bobo, non lo so io. Buonasera Bacchisa, buonasera Tore, buonasera a tutti gli ascoltoni. Avanti Tore. Hai sentito? Se non entravi devi farti a bagabì, eh. E perché non sono stato veloce, non hai capito? Ma fa un mese però mi ti fatti a bagabì. La ditta non trema, Tore, non trema la ditta, no. Vero Bacchisa? Oh, io se trema la ditta che ne fanno un muro. Aspetta, boh, non lo so anch'io. No, l'hai visto là, che ha avuto paura, cosa dici tu? Se non obbligo a pagare per un mese si affaccia subito. E invece si è cato. Perché mi sta fischiando l'orecchia, lo soffra, la legge ne fa scendere, qualcuno mi fa vedere di pagare la B. Ah, sono entrato veloce, contento sei tu. Ah boh, io cosa entro io? Un a caso, ma qualcuno bisogna prendere, no? E pigliano un a caso, però non a me. Ma perché non a te? Ma per te andare? Perché io sono fa vedere con te, mica ti posso dire che sono gumaro e cosa, no? Se fa vedere con te, qui non ti posso dire nulla. Allora, che mi dimmi così, è male, insomma. Avanti, Bacchi. Questo è Torricino. Torricino ha paura. Torricino ha paura, questo hai. Però deve stare attento a Torricino Buro che non lascia più vicino Andrea Sanna e Circolo Trento qui. E se no dopo il momento ha fatto per il Turco, è andato a pagare per il Turco, lo vale. E ha pagato 2.000 franchi. E che te l'ha detto, grazie prego. No, grazie mille. E dice, grazie mille mi ha fatto pagare 2.000. E non preso, a futi. E così va il dole, mi hanno preso. No, io non ti faccio bagabbi, hai compreso? Io ti dico paga e boh. Ah, tu sei proprio paga e boh. Non sei uscito importante, comunque non stai uscendo, Sono con RM, avanti. Attenzione chi vuole entrare. Attivo, avanti, da chi? Non si accende niente, nulla, zero, riporto zero, nulla. Non si sa se vuole entrare o vuole uscire, oppure vuole abbandonare il tiro. Capito? Tore, tu hai sentito qualcosa? No, scusate, adesso sono io che avevo il microfono, che avevo sentito, scusate. Tore, non c'è, con te ce l'avevo. Non lo so, ho detto di scusare che è entrato e non usciva. È troppo veloce. Avanti con la buonasera, Bacchisi, ripeti chi sei? No, non ho niente Maria, ha detto scusate, però non ho capito chi era. No, non lo so che chi era, che qua usciva, è un bel segnale, ma come modulazione zero. Zero modulazione. Non lo so, hai capito qualcosa tu? No, solo scusate e basta. Chi era amico tuo? Non lo so io, dalla voce non l'ho riconosciuto. Attenzione amico, vuoi entrare avanti? Avanti, ok, quando vuoi entrare noi siamo qua, avanti to. Sì, già siamo qua, non preghiamo a nessuno noi, andate. E allora signor Bacchi? E allora, lo sai, è sempre 60 solo, non cambia niente. Vediamo, dice, sta provando il microfono, gli è scappato il microfono, un cosa del genere, ho sentito. Eppure era pulito come radio. Avanti, l'amico, non ci vuole fare compagnia, non so, nulla, no, noi siamo antipatici. Ora sono antipatico io, pochissimo, e io riparla, dottore. Ah, già avrebbe San Marino, mi. Ci penso io, canale di comunicazione avanti, il canale libero cittadino. Sì, senza brigare nessuno, se vuoi entrare entra, se no pazienza, anda bene. Ok, riprendiamo le lezioni. Andiamo dove andiamo, dopo, avanti dei bacchi. Ehi, così è Marino. Andiamo proprio qua. Andiamo dove andiamo, noia. Mi pare che siamo fra qua becca e trisciatriccia. Davvero, due gocce ha fatto poc'anzi, due gocce e poi ha smesso. C'è un po' di venticello, è asciutato tutto. Stavo dicendo, beh, la staffa l'hai preparata, sì, per il tuo genero, sì, pronta. Ehi, fatta, dice che era libero, poi ci stava volando. Gli ho attaccato anche l'antenna, tutto pronto, la infila nel parapetto, stringe il bolloncino e sta andando. E apre la staffa, roba veloce, quando la vuole, svitta e sa portare. Ehi, ho già fatto, mi costruito, verniciata anche, l'ho verniciata anche con un zingo. Staffa, ma aspetta cosa, Bacchiglio? Fatto, non se ne parla più. Adesso stavo cercando l'accordo per attaccare al coso, all'apparato, e non ce l'ho, non ne ho, ce l'ho per il coso, per il Vocoson, per l'altro non va bene. Cosa accordi per attaccare, ho capito, l'antenna esterna, così? Io l'antenna, vado a fusare se lo compro. Le conviene andare con l'apparecchio, perché sennò si confonde, ne ha poco di raccordi, d'accordini, è così? Infatti, dovevo andare con l'apparecchio, mi serve per qua, se no magari io da per un'altra radio, oppure gli porto l'antenna lo stesso. Esatto, basta dire che serve un raccordo per collegare l'antenna esterna. Tutto ok, avanti Tore. Sì, vuol dire che ci vuole l'antenna nuova, vabbè, non andrà a comprare a Sira. No, io ho preso un danno, la staffa il raccordino per attaccare l'antenna esterna, devo andare a comprarla, non l'antenna nuova, l'antennino, lo stilo funziona, siccome si deve collegare l'antenna esterna ci vuole il raccordino dall'apparecchio al PL dell'antenna, capretto? Sì, ho capito io sì, l'attacco ci vuole, dai, l'attacco per l'apparecchio, ci compreso. Esatto. Gai este va chi? Ehi, la Gai este, che ci vuole to? La riduzione da PL grande all'apparecchio. No, all'elicottero, no, all'apparecchio. Se vuoi raccordo, ricordi va chi? Quanto abbiamo pagato? 8 euro, 9 euro quel pezzettino di raccordino. Una farmacia proprio, 10 euro, 10 euro qualcosa io avevo pagato, il primo. Poi il secondo 9 euro. È una farmacia, vabbè che sono pezzi speciali, ma è una farmacia comunque. Eppure c'è sempre gente, non c'è nessun altro, ma Sassari che c'è? Non c'è nessun altro, c'è Tore, Tonino va, e non ne ha, quell'altro ha preso niente, non ne ha, è l'unico, è lui che si gode. Lei domani ha ancora di più magno, ma... peggio una farmacia, avanti to. Io già me l'ho fatto arrivare da voi a due, quindi l'aggio uno e uno di scorta. Ma sta giù 2000 voci, quando io ordinare roba, avverti che ti facciamo ordinare un po' di roba, ti facciamo ordinare. Poi ti diamo la spesa per il trasporto, scusa. Ma sai quando li ho ordinati io quelli lì, eh? Quando li ho presi? Non avevamo iniziato. Sì, 20 anni fa, figurati. Pensa un poco. Sì, ma se devi ordinare roba, qualche raccordino a piede. Ci avverti a una bacchina, oggi vediamo qualcosa in più e poi ci dividiamo la spesa del trasporto, capito Alto? E paghiamo qualcosa in meno anche. Sì, quando devo ordinare qualcosa già ve lo dico. Quando devo ordinare però, non so quando. Cerca di ordinare qualcosa, cosa ti serve? Piede, cavo, tiro, adesivi, l'apparecchio, il coso. Vedi qualcosa e ci mettiamo in mezzo la roba mia, la roba di Battiglia. Lei roba chi? È chiaro. È un po' di pelle a pannello, un po' di pelle un cavo, e poi qualche fesceria si trova sempre, ha le banane che vai a comprarle, le vado a pagare un luce. Ma se ti piglia un paio di banane, mi ha fatto pagare, boh, una finanziaria la voglio pigliare, la usa da frusare, una finanziaria. È pazzesco, un pezzo di plastica, boh, allora ti do. E poi se io non ho visto che ne più io. Ma giù tutto canto. E che cos'è più già viraggio? Oh, ma per un momento non mi sei venuta. Vabbè, può capitare qualcosa, capito? A me sembra d'accordo, altra volta sono andato, la differenza è 9,50 euro. Boh, un pezzo, va bene, un'altra cosa speciale, ma non dico io. Bah. Mi approfittando e boh. Avanti, ma chi, quello per la niente non va nuda, si sta iniziando. Porta poca roba porta. A teme, capito? Teme a fare. A teme a fare il magazzino. Quel ragazzo, capito, Bacchi? Sì, c'è anche quello, sta iniziando. Ma se invece portarne 100 ne porta 10, 10 di un tipo, 10 dell'altro, finiti quelli li riordini. E gira le cose, invece quello là ne ha cassetti. A cassetti, tu pensare a un PL a pannello, ne ho preso 4 l'altro giorno, 6 euro. 4 o 6 euro, fatto un conto. Ma ti ha pagato quasi 1,89 euro più o meno. Boh. 1,51 euro. Io, una farmacia. Se lo vuoi è così, se no vai. Però non è. Non ne ha nessuno. A Torino che stanno sempre arrivando non arrivi mai. Mi resta dopo un ratto, Tore, ho vacchiso. Perché Tonino quando ordina tutto insieme arrivi fra un mese. E quando ordinava? A chi mi bagno non sta più ordinando più nulla Tonino, ormai sta svendendo la sua valigia e poi stava, che ormai non ha fatto più nulla, non preso. Ma già gli fa l'ordine, sì. Però gli arriverà fra un mese, due mesi. 3 mesi si bassano. Tu pensi di ricambio, apparecchiature, tu qualsiasi apparecchio ricerca che ce l'ha, batteria e roba varia, però pezzetti piccoli non ne ha più. Ma sta roba grossa, ma sta roba grande, ma chi lo so, sì, già lo so. Poi ha un casotto, ecco, un casotto. Lo so che è un casotto, già lo so. Andiamo bene, andiamo, va qui, bobo. Infatti, è così. Io stasera sono andato a comprare un po' di mastice per fare gli innesti e ci ho visto un motore, Marie, un motore per l'acqua. Costa di meno dell'abbrico, molto meno, con 2 anni di garanzia. E dove hai visto? Via Mercedes? No, in via Giovanni Pascoli. Oh, da quanto è? Da un e mezzo? No, è mezzo, 750, più di mezzo cavallo, però la portata, siccome c'è un motore centrifuga, la portata su 100 litri d'acqua al minuto. Chiedi a Albertino se va bene. E quanto è in cifra? 100? Col pressor stato 140, compreso pressor stato. Il pressor stato come quello che ho io, cioè tu, 47 euro. Allora sei fosse tu, ma questo cucurri a me, ti ho pagato 200 euro, vabbè, e da 2,2 dipende da quanto è la portata, perché in quel motore c'avevo io, c'era uno piccolino, ce n'era, e l'idrale come ho fatto comprare quello più grande, perché non ce la faceva la portata, capito? Quello lì è da 2,2, io appena attacco parte l'acqua, non c'è un coso, va una potenza pazzesca, Una parola, c'è quando si viene con il motore, su 100, sul motore? Il motore è 120 e qualche cosa, 2 anni di garanzia, c'è a 220 e a 380, infatti devo chiedere Albertino come lo vuole, se lo vuole 220 o 380. Ah, per me ti conviene a 220 gira gira, la manco è tutto fatto, poi non so, lo chiami Albertino. Dice, va Alberti, così, va mi conviene, dai un consiglio, e lui sa cosa dirti. Vai, lo prendi ciccia, e te lo colleghi. Infatti, lo collego è mio. No, gli ho detto al signor Angelo, quello della semente, gli ho detto, a vedere un po' costa un cavallo e mezzo, che cosa costa? 3,80 o 2,20, un cavallo e mezzo, ma dice, in settimana glielo faccio sapere. Ma che marca è? Non sai, DAB o no, che marca è? O caprali? Non l'ho guardato, è azzurro. È azzurro, è una cosa, un motore centrifuga. Spinge l'acqua sino a 350 metri. Oh, vedo che la spinge, eh? La spinge allora, perché intanto il tuo la fa. Dal posto va a cisterna, la cisterna tu attacca l'autoclave e butta in affiaggio, rubinetto e così via, giusto? Io deve far andare l'impianto a pioggia che c'è dentro la serra, oppure a goccia, ma a pioggia, a goccia vado anche a caduta. Quella pioggia mi interessa, oppure l'acqua nel solco. Maestro dice che va bene lui, maestro dice stia tranquillo che va bene, se non glielo avrei dato. Però è meglio chiedere a Albertino, e già lo sai come sono fatti, per vendere fanno quelle altro, tu già lo sai anche tu purtroppo, e lo chiedere prima di prenderlo. Lo chiedo a Albertino, chiedo cosa mi dice, domani lo chiamo, dico, vabbè così così, cosa mi consigli? E lui ne sa più di me. Esatto, secondo dice, se no ti salta un zamarino, ti posso curare un paio di curiviti a culo. Avanti, to. Bisogna far così, bisogna fare. E quindi te lo devi comprare, Bacchi? Se vuoi innaffiare quest'estate, sì. Perché chi ci è venuto prima mi ha fatto un casotto e non finisce più. Allora ti conviene Giambavviro. E non fai altro, almeno così ce l'hai a posto, però farlo fare e collegarlo da qualcuno che ne sappia. L'unico che è venuto, l'ultimo elettricista, quello da dirlo, che ho visto c'era i piedi per terra. No, il primo che è andato tutto in a mala. In pratica quelle finora ci ha messo 900 euro, c'è preso in tema. Savi Pucu, tutto nuovo, è un elettricista buono, avevi risparmiato forse. Se l'avevo messo nuovo dall'inizio, passava quell'imbecille lì, mi diceva, guarda, fa così, compratelo nuovo e questo lo abbandonavo. Avrei guadagnato molto di più, se avessi uscito il motore, se avessi uscito anche una mangiata, una bevuta, e un motore in roba. Infatti. Smetti che c'è un ladro, non bisogna manco più avvicinarlo e abbandonarlo e Quando uno nasce ladro vuole ladro, e poi quando l'elettricista diventa pasticcione, muore pasticcione. Sì, dove vuole prendere sparato l'elettricista, Bacci? Vuole prendere sparato e Il giorno è venuto Albertino che ha collegato lì, come ha toccato l'interruttore del generale, scoppia tutto, una bomba, e ne ha fiammata alta, e io sono andato correndo al contatore a abbassarlo, perché mi ha detto, vada correndo, spenga, spenga, e lui soffiava, lo soffiate, e ha bruciato tutto, infatti ha visto le condizioni sui interruttori. Tutto vero, tutto vero, vabbè. Adesso gli hai fatto tutto nuovo, dai, ormai c'è tutto l'impianto, diciamo che hai fatto l'impianto nuovo adesso, dai, tutti i raccordi, la centralina e tutto quanto, adesso ti manca solo quel motore e basta, vabbè. Ma se vera, Sabi Gallucci, il primo e il secondo, il terzo già va bene, dai, Albertino è troppo in gamba, Albertino, avanti tu. Infatti. Fai prima a mettere tutto nuovo e così armanco non vi benci più e ti metti a innaffiare quest'estate. Ma tu devi pensare, quel motore c'era minimo 30 anni, perché io ce l'ho trovato lì e lo usavo ad innaffiare questo qui, che c'era le serre. E quel motore io l'ho smontato, sai quanto, 1000 volte. Ho cambiato le cose, la guarnizione di tenuta, ho cambiato non so che cosa, pasticcivare, lo aprivo e lo richiudevo. Per non perdere acqua gli mettevo il mastice e stringevo tutti i bolloni a posto. Questo invece prende e mi taglia anche i fili dentro. A cosa te l'ha da fare? Boh. ha fatto solo casino e butto Battista. Solo casino ha fatto, è un pasticcione, ma si vede, va, avanti do. E infatti, meglio pigliarlo che acquistarlo. Quindi, mandatelo anche su Baesi, un caffè fra sé e maglia sinistra. Andiamo male. Non lo so, intendo. C'è poco gente. Bobo, avanti do. Sì, bisogna fare così, bisogna fare. No, alcuni anni, lascia i documenti e pigliarlo nuovo. Infatti che se ne pongo per lo vecchio. Ma non deve farlo manco il cancello, tanto sono sicuro a metà febbraio viene a domandarmi anche cosa. Perina, impianto, tutto il mondo. Bene, Meda, avanti da chi? Ehi, anda bene. Dopo, non si può. Signor Bacchì, mi sa che ti devi mettere il cuore in pace. Si è già messo il cuore in pace, tu. Già un giorno, vero Bacchì? Sì, oia. Ormai tutto in pace, tutto in pace. Tutto tace. Perché oggi mi sono messo tacendo, Luca, buonasera. Gianni, sì. No, non ho messo l'antenna. È sempre la stessa antenna. Io posso variare in antenne, da grande a piccola, capito? Adesso ti ascolto come ci viene, buonasera a tutti, grazie, ti stavo ascoltando. Buonasera Gianni. Già, ieri l'ho sistemata. Ho commutato dalla piccola alla grande, perché ce ne ho una piccolina e una grande, e stavo andando con la piccolina. Adesso ho detto andiamo con la grande che è migliore, così mi ascoltano tutti. Avanti Marino. Ciao Gianni, ben sentito, ben entrato. Avanti Tore. Sì, ciao Gianni, stammi bene. Oh Gianni, meno male non ti ha detto ciao Gianni, un bacione, ben entrato. Ma laggiù c'è sempre da di vaega, non te ne becchi una, no? Ma me lo fai dire, detto. Ma già ho preso, andiamo, avanti già. Tutto a posto oggi la giornata, sì. E intanto se ti lamenti c'è per quella, non ve ne arrivate, vuoi essere farà. Bene, avanti, signor Bacchisio. Ehi, ma già l'antenna hai cambiato anche tu. Già ne hai portato le Bacchisi. Già ne con il cazzo del divano col portato vino, vero già? No, proprio nel letto. Proprio nel letto, sì. Buonanotte. Hai capletto, Bacchì? Sì, se devo dire al tempo, non posso stare. Tu che ti devo mettere la protesi così o no? Allora, vecchio sei vecchio, lì ci vuole una cinesina, con quella crema di massaggi che fa e ti passa tutto, ti passa. Vittorio già ne sa qualcosa, avanti Bacchì. Ehi, ma no, se c'è la cartilagine consumata Gianni, poi devi farti le punture, le infiltrazioni, e il dolore ti passa. No, ho già fatto una cura e non mi ha fatto un caso. Ho fatto una cura di calcio, ho preso integratori, niente da fare, bisogna operare il buco. Non venuta di qua e sono già in vita da settembre che mi dovevano operare, dai 15 settembre ancora sono a chiamarmi. Mi hanno chiamato a fare tutte le analisi e poi non mi hanno più chiamato. Ma qui a Sassari già? E allora? Perché a me io sono andato a Cagliari per il menisco e più c'aveva un po' di cartilagine consumata. A me mi ha operato Giovanni Angiolini, quello che ha fatto Grande Fratello. Tramite mia figlia mi ha prenotato a lui, mi ha chiamato, in giro una settimana mi ha chiamato la segretaria da Cagliari. Roba veloce, ben fatta. Avanti. lo so, secondo come va. Quella di Fortiame è andata al braccio perché gliel'hanno rovinato a casa. E dipende sempre come si fa. No, ma lo sai cos'è? Che qua hanno chiuso l'ospedale di Alghero, se non l'avrei fatta all'ospedale Marino, ho fatto io tutte le visite all'ospedale Marino, poi hanno chiuso la sala operatoria e li stanno male tutti a Sassari. Quindi cosa è successo? C'hanno i pazienti di Sassari più quelli di Alghero e sono incasinati neri, capito? Uno schifo, è uno schifo, e tanto danca lì, chiudo, apro, boh, è un casotto. Vabbè, l'intervento già lo sai, indovino l'intervento. Non c'è nulla da fare, io avevo il problema che la gamba si andava contro suo, appunto mi ha fatto fare subito la risonanza, l'ho fatto, lui mi ha fermato tutto e ho pagato la prima visita a lui, ho pagato e dopo non ho pagato più nulla. E mi ha fatto fare due filtrazioni per la cataratta, lui un po' me l'ha salvata. Adesso grazie a Dio non mi posso lamentare, c'ho un po' di dolore come tutti, non c'è il cambiamento del tempo e basta, tutto qua. Ok, avanti, ma chi? No, io c'avevo un problema al braccio, non potevo sollevarlo perché si era consumata la cartilagine del braccio destro. E mi volevano operare alla Stecca Bianca, al Pozzol Milano. Infatti mi ha fatto la vista al giorno, mi ha detto ci vediamo la prossima settimana in sala operatoria. Ho detto, non saranno. Parlando con un medico lì, così, di sottobanco, mi ha detto, c'è vada, dice, all'ortopedico che c'è in via, aspetta che sei, è uscito all'ospedale, aspetta un po', adesso mi viene, vabbè, c'è un ortopedico anziano, napoletano, sono andato da quel signore lì, mi ha visitato, mi ha detto, se guardi, ti faccio spendere qualche centesimo, qualche lira, allora in lire, però dice, mettiamo a posto tutto, vabbè. Ho fatto 5 infiltrazioni. Alla prima dopo andava tutto bene. Ma chi sei sparito, È sparito solo, perché sono sparito? Allora non riceve questo qui. Allora mi ha ascoltato quello che ti ho detto. Abbiamo ascoltato tutto, sei sparito, hai iniziato a fare. Hai fatto 5 infiltrazioni alla prima e sei sparito, avanti. E io mi stavo dicendo che doveva operarmi la Stecca Bianca, dottor Milani. E non mi sono fatto operare, ma mi facevano 3 buchi per mettere a posto questo cavolo di cartilagine. E no, parlando lì fuori dall'ambulatorio, ho trovato un signore, un medico, ma dice che problemi c'ha, così, dice, vado via Rockefeller, che c'è un medico, un ortopedico abbastanza bravissimo, è anziano, ne sa più qualcosa più di noi. Sono andato col signore qua, ho visitato, ma dice, devo fare minimo 5 infiltrazioni, però ci deve spendere un po' di quadrini, perché la mutua non li passa. Allora in quel periodo mi c'erano 55.000 lire euro ognuna. E mi ha fatto la prima, dopo un quarto d'ora mi ha detto, dice, lei vedrà, dice che non sente più niente. Infatti dopo un quarto d'ora ero rinato, e stavo andando più. Lo so, è come ho fatto la gamba anch'io. Io ho pagato, la farmacia la mia era doppia, l'ho pagata. Intorno ai 100 euro pagata, la doppia però, e mi ha, grazie a Dio, mi ha calmato il dolore tutto quanto, avanti già. Ma le filtrazioni in farmacia fa? Giovanni mi ha fatto del foglio, il dottore, l'ortopedico, mi ha detto vai in farmacia e prendi questa da qua, sono roba di filtrazioni, là, quel prodotto che mi ha fatto, l'ho pagato intorno ai 100 euro, ho pagato. Non ha gente tenuta, vabbè, forse il dolore ci avevo, ma neanche il dolore della puntura ho sentito, figurati. Ma io ho un dolore insopportabile, non dormo di notte, non riesco a girare da una parte all'altra, guarda, sono mesi e mesi qui, ti ho detto, da settembre mi dovevano operare, poi non mi hanno chiamato. Oramai ho perso il lavoro, ho perso tutto, cioè per la possibilità pure quella di Mossama. Purtroppo già, il dolore per carità. Non lo so, se cos'è, già non può andare sempre con questo occhio bluffer, che alla fine non ti fa più effetto, capito? Alla fine non ti fanno più effetto. Anzi, ti fa male le fegato, ti rovina e basta, sono per il protettore. Avanti, to. E si dice che dolori, bobo, e muove andemmo. Già, c'è da soffrire, e boh. Ci sono. Oramai mi sono bruciato tutto malattia quanto c'è, adesso ho finito anche al lavoro, adesso mi manderanno anche licenziamento sicuramente, perché mi hanno tenuto anche troppo. Ho fatto tutta la malattia, 6 mesi. Poi mi hanno dato tutte le ferie che ci avevo arretrate e tutti i giorni di permesso che ci avevo. E adesso non c'è più nulla. Non ti dà più nulla. Ma che cosa dovresti fare? Dovresti andare all'Inps e chiedere a vedere cosa devi fare. Non mi hanno voluto davanti il titolo, che mi hanno fatto il mio dottore del lavoro, mi ha fatto il certificato come sono inabile a qualsiasi tipo di lavoro adesso. Che non posso muovermi, poi non c'ho solo quello, c'ho anche di luce degli abiti che pesca al piede, insomma, è brutto tutto male, non è che sia così. Brutto è così. Secondo me non possono licenziarti, perché anche se non c'hai la malattia, loro ti chiameranno e devi giustificare cosa devi fare. No, un attimo, già, scusa, è tutto cambiato, è tutto cambiato. Molte volte ti manda via l'Inps, non hai capito, non è l'azienda, l'Inps ti manda via. A cosa? Lavoro di noi da poco, è stata chiamata, l'Inps è l'azienda che non lo voleva più, A Fabio. Ha superato troppi giorni di malattia, non hai capito? Così è. Allora dovrebbe salire all'Inps e dirgli a vedere cosa devo fare io per poter avere la malattia. Io non posso più lavorare, non posso fare più nulla. Cosa devo fare? Ho mi dato la pensione, la domanda di pensione, fatta lei già. Sì, ne ho fatto un minimo, Questa cosa è tutto bocciato, con tutta la patologia che c'è, hanno tutto bocciato. C'è gente che è sana, che è più sana di noi e baglio, lasciamo perdere, guarda, abbiamo fastidio molte cose, che sta avanti ma chi? È così proprio. Chi c'ha i dolori se deve tenere, lo Stato se ne fotte. Bene signori, io chiedo permesso di QRT perché è arrivata quasi l'ora del mangereccio. Bene, ciao Gianni, buona serata, grazie per essere stato a salutare e anche a farci quattro chiacchiere. Ciao Marino, a domani, buona serata, saluta la signora e company, ide con le patatine per Tole, ciao Tole, buona serata, saluta la signora, buona cena, buon tutto quando lo farete. Bacchini, ascolta fino a lì, poi chiude. Bye bye. Ok, ciao Bacchini, ben sentita, domani se coincide, dai. Se non ci vediamo domani mattina, già ci sentiamo domani sera. Che domani non so che ora dove fare delle commissioni, non so se la faccio a quell'ora. Ok, siamo tutti in casa anche per te, avanti to. Ciao Bacchi, ci sentiamo alle prossime. Io ne approfitto, Mari. E vi saluto. Ciao Marino, ciao Gianni. Alle prossime, a domani, ok, statemi bene, ok, ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo, dottore, ciao, anche a te, Battiglia, avanti, Marino. Ok, ciao, Tobe, sentito anche per te, domani si coincide, dai, ok, è così, già, è un casotto, c'è gente che non c'ha nulla e prende i soldi, ma te immaginate, quello mi ha fastidio. E a me invece no. Io adesso ho l'80% di invalidità, io non è che sia del tutto che non sono invalido, sono invalido all'1%, quindi loro per non darmi il 100%, per non darmi la pensione, non mi danno il 100%, capito? Vantaggio, vuol dire, lo sai cos'è? Che adesso stanno temendo, prima loro cercano meno le danno, meglio è per loro le pensioni, troppo ne hanno regalato, non hai capito? C'è mio cognato che lavora con noi, il responsabile, ha avuto 2 infarti, appunto fa la domanda, non so quanto c'è di validità, bocciata, non c'è nulla da fare. Adesso ha fatto un'altra volta la domanda e ha messo l'avvocato, è un caos. Adesso ti dico una cazzata, c'è mia suocera che anni passati l'hanno tagliato la gamba, no? Un dottore di Sassari che ha sbagliato, perché se andava a Bologna la gamba le rimaneva quella che c'era. E la chiamavano sempre a vista, fine, ragazzi, questo dottore si è morto, la chiamate nel suocero, quando prima la visita facevano via avviamento, facevano le visite, è sceso il dottore da su, lei era in macchina, e gli ha detto intanto gliela blocco, era convinto che la gamba, che mia moglie, mia sogna, gli ha fatto le voci, era convinto che la gamba cresceva, capito? È una cosa pazzesca, gliel'ha bloccata, e naturalmente l'avvocato, sono passati 2 anni, gli hanno tutto rimborsato, intanto è stato 2 anni senza pensione, per colpa di questo stronzo qua, Jack Ribaldo, vai a farsi venire l'acuto, avanti già. E lo so a me cosa mi ha detto quello che mi ha visitato, guardi che prima di me c'era una oncologica, una patente oncologica, non l'ho passata lo stesso, e detto, beh, per forza, siete amici di Boeri, per forza che vi paga per non dare le pensioni, ma vai da domani. È la verità, io ti fa vita, è la verità, non ho capito, ma tu dici una che le manca la gamba, ma perché la chiami ogni anno a vista, cosa pensi, che la gamba cresca? Adesso io per gli altri sono sotto la gamba come altre cose, là, altre patologie, ormai non c'è nulla da fare. Era ancora pazzesca, boh, avanti. Io quando sono andato ho trovato un amico che c'è la moglie che praticamente ha un tumore e oltretutto ha anche la sclerosi multipla. Beh, ogni anno la chiamano a vista, io le dico, tu fai una cosa, chiamale i carabinieri e fai venire a loro a casa tua. E a lei non la portare più in ambulanza, mi la dovuta portare. No, non è possibile. Tu pensi che mia suocera dalla macchina voleva salire su al secondo piano a fare bene la gamba a questo imbecille qua? Ma te la genetici? Poi l'ho messa in carico con la cosa, che la sedia all'ostello e non passava l'ascensore. Ma anche io si ammazzano. È una cosa pazzesca, boh. Oh, io in Italia siamo, c'è nulla da fare, ma mai Claudio l'ho sentito già. Ah, io l'ho sentito stamattina, stavo lavorando, ma è tutta dolore alla schiena, probabilmente non è a Puglia, capito? Sempre a dolore alla schiena. Ah, i soci lavori sta facendo giù nel condominio, così? Lui lavora con questa ditta, non so cosa stia facendo. Stamattina mi pare che stavano tagliando erba, non lo so cosa stavano facendo. Però non ne ha voglia, perché detto che non aveva voglia manco di lavorare perché aveva la schiena a pizzo. Sì, non posso immaginare. Poi tutti gli acciacchi adesso arrivano. Se ti fermi, è meglio che sia in movimento, se no guai, ti fermi guai, ohia. Ohia, è un casotto. Sei ben collegato, sì? No, adesso sono seduto. E vabbè, comunque... Ascolta, devo salutare che sta scrivendo il telefono, devo rispondere, dai, ci sentiamo. Ciao Mari, ci sentiamo. Ciao Gian, se non preoccuparti, a domani se concilia, dai. Ciao. Ora. Ora, c'è nessuno. Ciucucciù. Non lei guarda, devi premere per favore, mi senti, mi copri, sono tutti illuminati, tutti stanno facendo un cazzo di cioccolato, si la mamma, mi copri, non conosce la mia voce, Antonio, Mario da Segnoli, ma senti, quello lì lo devo fare, infatti premo e parlo, perché non puoi dire nulla, vaffanculo, vedi, è quello lì, allora quell'altro, questo, per farlo con voi, lo so, e così parliamo in tre, parla in tre, quanti, casino,